Mi fate parlare? E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati... Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione ma tua. Chi l'ha detto? Ma scusami un attimo, perché, no, ragazzi, perché mi dici... Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare ma la che gente. C'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? Ma della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della... Ma che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei impazzito? A fare il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ah belli, e mi faccio i cannesi. Parenzo, Luca, Luciani, Luca, Luca, ciao Cruciani. Guarda, l'accompagna mia è slovacca. Confermo in toto tutto quello che hanno detto lì alla Rai. Figa, c'ha 35 anni, però è figa ancora. Pigiamoni non ne porta, porta i leggings attillati, solo per i zomici, eh? Faceva la mignotta prima. C'ho due chiappe, amore mio. Ma quale donne dell'est? Ma se ci sono le terrone che sono le migliori che ci sono. Le terrone, sì, le donne del sud sono una meraviglia. Belle, calde e la maggior parte credono nella famiglia. Ma no, ci sono le zoccole che giù, che discorsi. Quando scopano, scopano perché gli piace. Quelle dell'est, soldi e minchia. Le donne dell'est, alle donne del sud, ce la devono succare. Tanto sono sempre dei ghiaccioli, zoccole ma ghiaccioli. E adesso per spegnere? Schiaccio ancora sul rosso? Boh. Buonasera. Senta signori, da quando mio figlio ascolta la vostra trasmissione, non lo capisco più. Siete persone orrenti e sboccate. Parolacce infinite. Allora ragazzi, nessuno ha calcolato bene quello che è accaduto nei giorni scorsi, perché ovviamente la signora Paola Perego è conduttrice della trasmissione, ex conduttrice della trasmissione, parliamone di sabato, sì. Non è Santoro, non è Vespa. Enzo Biagi, non è Luttazzi, dunque non viene difesa da tutti i cultori della libertà di stampa, della libertà di espressione, eccetera, sì, eccetera. Anzi, è considerata, diciamo, come la conduttrice di trasmissioni di serie B, di no, serie C. Nazionale Popolare, Nazionale sì, vabbè, Popolare. Comunque non viene considerata la stessa stregua di quegli altri. E dunque l'intervento di alcune istituzioni, e mi riferisco in particolare al presidente della Camera Boldrini, come al solito, viene considerato come una cosa normale. E dunque si passa tranquillamente dall'editto bulgaro all'editto di Montecitorio. Ma è buono questo. Dall'editto bulgaro all'editto di Montecitorio. Ottimo inizio. Ed ottimo. È gravissimo quello che è accaduto. Il presidente della Camera si deve fare i cazzi suoi. Non si deve impicciare di una trasmissione televisiva. Chiaro? Chiaro? Chiaro? Non si deve impicciare di far chiudere questo, far chiudere l'altro, esprimere soddisfazione, perché questo è successo oggi. Il presidente della Camera, uno dice se la prende troppo col presidente della Camera, se la prende sempre, ma è lei che ci dà l'opportunità. Un presidente della Camera dovrebbe stare zitto, così non giudichiamo, non diciamo niente. Deve stare zitta, no, zitta naturalmente no, ognuno può dire quello che vuole, però di solito il presidente della Camera, come il presidente della Repubblica, parlano poco, no? Parlano pochissimo i presidenti, sì, della Camera. Sì. Tagliano nastri, vanno alle cerimonie, fanno sorrisi, parlano di cose generiche, di costituzione, di arredi della Camera, parlano di, no, di tutte queste cose inutili di cui si parla e sono anche normali, però non è che si impiccia continuamente, per esempio, di trasmissioni TV. Ora, il contributo della signora Boldrini, mi dicono, sia stato fondamentale per la chiusura di questo baraccone. Chiamasi, non mi ricordo come. Allora, sentiamo la soddisfazione della Boldrini. Quindi io penso che abbiano fatto bene in Rai a decidere di chiudere questo programma. Era l'unica cosa che si poteva fare. Mamma mia. Ancora Boldrini. Mamma mia. È offensivo per tutti, è offensivo per le donne in generale, per quelle italiane che vengono considerate come incapaci di creare una relazione, per quelle dell'est che vengono descritte come animali domestici, peluche da accarezzare. Parte che non è vero. Quello che viene fuori è solo nella testa della Boldrini e di altre persone. Nessuno, non c'è la rappresentazione. È un gioco che si faceva sulle donne dell'est in quella trasmissione. Tra l'altro, il problema di questa cosa qui è che l'effetto è stato contrario. Cioè, se ne è parlato molto di più dopo, sì, di questa, appunto, roba qua. Tra l'altro. Di quanto non sia successo prima. C'è una cosa patetica, ridicola. Sgarbone, non voglio più sentire queste cose qua. La Boldrini. Ah no, ha detto un'altra cosa, però interessante. L'elenco delle donne dell'est di quello che fanno grida vendetta. Ma cosa grida? Una roba incredibile. Ma dai. Non so se avete assistito all'ultima situazione agghiacciante che è accaduta. Una trasmissione del servizio pubblico di sabato pomeriggio in cui c'è una lista secondo la quale, ecco, gli uomini italiani preferiscono avere mogli e compagne dell'est, e l'elenco grida vendetta. Erdogan, che ha detto a tutti e 50 milioni di islamici in Italia, qui nessuno parla di queste cose, ha detto fate i figli, perché questi figli di puttana li dobbiamo eliminare, perché allora io vorrei parlare un po' con la Boldrini, io vorrei parlare un po' con questo mentecatto di Antonio Dall'Orto. Senza controllo sanitario. Sgarbi, signor Sgarbi. Donato da Varese. Sentiamo, ragazzi. Sgarbi, dai. È una follia aver cacciato la Perego, che è un'ottima conduttrice. Vuol dire non aver capito l'ironia, il divertimento, le battute, la commedia italiana, i panettini e panettoni, dove non è che la donna è umiliata, ma la donna è furbissima e fa credere a te che sei uno scemo, che lei è tua sottomessa. È grottesco. Con tante idiozie che fanno in televisione, chiudono una perché c'è l'idea della femminista, la Boldrina o chissà chi, che dice no, ma lì la donna non può più essere trattata. Come trattata in quel modo? Io oggi ho visto una ragazza rumena, l'ho interrogata, era felicissima del prospetto della ricetta che aveva indicato la Perego. E ogni uomo lo pensa. Io non so se lo pensa ogni uomo. Si può discutere fino all'infinito, naturalmente, delle generalizzazioni che c'era in quella lista in cui praticamente le donne dell'est non girano mai in pigiama, cosa che non è vera, naturalmente, con i pigiamoni, anche perché i pigiamoni possono anche essere molto sexy, i pigiamoni quelli larghi, no? Sì, beh, sì, il pigiamone, certo, largo può essere anche molto sexy, no? Sì, non c'è dubbio. Sì, per cui sono anche delle banalità, delle generalizzazioni, dei luoghi comuni, ma chi se ne frega? Questo è il punto. Mi chi se ne frega? Quei sei punti mi sembravano talmente, come dire, comici, quasi comici, ridicoli, grotteschi. Userei il termine grottesco. Che chiunque capisce che era una discussione da bar. No, ragazzi, le donne trattate male. Ma la cosa incredibile poi è che alla Rai sono stati appaltati per anni programmi praticamente al Vaticano. Cioè a Rai 1, sì, in particolare, il Vaticano ha appaltato, la Rai ha appaltato al Vaticano il centro riconosciuto dell'omofobia, il centro anche della pedofilia e di altre cose. Amico mio, non ti preoccupare. Certo, sono stati appaltati al Vaticano, che certamente nei confronti delle donne non ha mai, come di un trattamento di favore i signori del Vaticano, no? Essendo peraltro tutti maschi, soprattutto, no? Soprattutto. Ci sono anche le suorine. Sì, ci sono le suore, ma insomma sono considerate praticamente delle pezze di piedi, diciamo la verità, al Vaticano. Ma cosa comunque dici? Sì, sono considerate di serie B. E cioè, perché ci sono prete, donne cardinali? ci sono donne cardinali, quello, e allora è una discriminazione, perché non ci sono donne cardinali? Dici che la Boldrini si dovrebbe occupare anche di questo? No, io anche di questo. La no, Boldrini ma dovrebbe fare una grande battaglia Rai 1, per una Rai donna 1 papa. Ha appaltato per anni e continua ad appaltare trasmissioni al Vaticano, che è il centro della discriminazione femminile e dell'omofobia e spesso anche della pedofilia. Di cosa parliamo? Del programma della Perego? I problemi sono altri. Occupatevi di quante trasmissioni sono state appaltate al Vaticano per anni da parte della Rai, dai. Grillo e la donna in pigiama. Ora, l'elenco delle cose, tolta quella appunto della superiorità che attribuisce al maschio, sono talmente risibili. Dice, rimane incinta e poi quando ha fatto il bambino è in forma come prima, che c'è di male. Ex ex non porta pigiama. Una che viene da me col pigiama, la caccia a pedate. E la caccia a pedate qualunque uomo. Non posso essere d'accordo con Grillo, che conosco da 40 anni, che veniva a casa mia nelle nebbie padane a corteggiare mia sorella con una Porsche lussuosissima e che ho sempre guardato con questa straordinaria, notizia, più o meno l'ho detto, ho scritto, provavo una grande invidia perché un uomo così modesto, così poco dotato avesse tanto danaro. Danaro che ha raccolto in modo, presumo, onesto, spero onesto. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento La Zanzara. Programma normale dove magari non si parla di prenderlo, virgola, o metterlo nel culo, ce la fate a farlo? Naturalmente. Sono sposato con una ragazza russa da 16 anni, due figli splendidi. Una sera mi ha beccato al ristorante che mi stavo inchiodando una al lavandino. Lì per lì si è incazzata. Il giorno dopo: amore, sei ancora arrabbiata? Ma no. Vabbè, vorrà dire che il muscolo si è allenato. Hai capito? Siamo al top. Vabbè ragazzi, non è sempre così però, eh? Non è che la risposta sia sempre quella. Io sono convinto anche che esistano delle donne dell'est estremamente gelose, estremamente possessive, armate anche di coltelli e bastoni, se tu tradisci, eh? Cioè, non è detto, no Parenzo? Non tu è dici, detto. Sì, non lo so, non ho mai su questo caso ho pochi dati da darti, perché non ho mai avuto fidanzate dell'est, quindi non posso parlare. Beh, per tanto per tu hai avuto poche fidanzate in generale. Questo avuto diffamazione? Dunque, no, ma come diffamazione? Ma che c'entra la diffamazione? No, quando uno dice poche fidanzate, mica è diffamazione. No, dai. Ho detto poche fidanzate. No, tu hai detto poche fidanzate. Fidanzate, ma sì, dell'est, poche non fidanzate. Ho mai avuto fidanzate dell'est. Io non ho mai ma io avuto nemmeno, devo dire, ho bazzicato poco da quelle parti. Cioè, ecco, nel senso, in quel territorio dell'est. E devo dire la verità, le ragazze dell'est. Pensare, straniere. No, non mi sono mai piaciute le donne dell'est. Devo dirti la verità, non mi sono mai piaciute. No, mai. A parte che spesso sono depilatissime, tutte depilate. Questo A dottore non sa depilare. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Questa è la signora Rivelli, giusto? Allora ragazzi, alla Camera dei Deputati. Questa è la signora Rivelli, sì, no? Sì, quella Rivelli che cantava la la la la la la. Sì. Alla Camera dei Deputati, sì, credo ci sia stata una conferenza stampa da parte di un signore che si chiama Bernini, dei 5 Stelle, il quale parla degli animali. È molto animalista il signor Bernini, eh? Sì. Parla di allevamenti intensivi. Credo che c'era anche la signora Innocenzi a presentare il suo libro. Sì. Bernini, sentite che dice sugli allevamenti intensivi e sui maiali. Senti. Quelle strutture con maiali ammassati uno sopra l'altro, questi maiali ad esempio bevevano l'urina degli altri maiali perché non avevano acqua a sufficienza, mangiavano in mezzo al fango le loro feci, avevano prolassi anali. Io questa non l'avevo mai sentita, ragazzi, i prolassi anali dei maiali, sì, dentro gli allevamenti intensivi. È un intensivi. Problema anche quello, ragazzi, è un problema. Su, dai, alla Camera dei Deputati, del signor Bernini. Five stars, i camion della morte con gli animali dentro. Ragazzi, quando da adesso in poi vedete dei camion con degli animali dentro che sono portati all'allevamento, quelli, secondo un esponente dei 5 Stelle che si chiama Bernini, e non solo secondo lui, sono i camion della morte. Se uno dice che quelli là sono camion della morte, bisognerebbe bloccarli ed impiccare il conducente, se sono camion della morte, cioè. Tecnicamente è così. Come si faceva nella seconda guerra mondiale, quando si bombardavano le infrastrutture ferroviarie perché c'erano quei treni che portavano verso se uno come Bernini pensa che quelli sono camion della morte, allora bisognerebbe prendere l'autista di quegli autobus, fermarlo e impiccarlo perché aguzzino, perché trasportatore di persone che poi vengono uccise, che in questo caso sono animali. Comunque Bernini, dai, tutto normale. E in più c'è anche la Federazione Europea Veterinari che chiede che i trasporti siano ridotti, che non ci siano questi camion della morte che viaggiano, che fanno ininterrotti viaggi nell'Unione Europea, che si fermino alle dogane dove gli animali... Dalla vostra parte, Mussolini contro Esposito, PD, gli immigrati fumano e stuprano. Senti. Non sono abbandonati i terremotati, non sono abbandonati i Mussolini. Possono dare una mano, dai, o non devono fare niente, solo fumare e fare altro, o stuprare le donne? Che devono fare? Ma gli dai, ma dai, Mussolini. Aiutare a togliere le macerie, belli, giovani e forti? La signora Mussolini, la signora Mussolini. Allora andiamo a Simone Milano, vai Simone. Sì, pronto. Dimmi pronto? Simone, dimmi. Sì, ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Ascolta Cruciani, niente, io parlavo, sento un attimo discutere riguardo alle donne dell'est, no, che non ve ne intendete. Allora, chi è che non se ne intende, scusa? No, io ho detto che non ho competenza in merito. Vabbè, allora, vabbè, parecchio c'è da aspettarselo, però diciamo che... riguardo alle donne dell'est, io posso dirvi per esperienza. Sì, è arrivato l'esperto, avanti. Sì, sì, è arrivato il frequentatore di donne dell'est. Sentiamo. Ma io sono stato in Romania, in Bulgaria. Sì. Allora mi sono anche divertito. Però quando che sei andato a fare? Che sei andato a fare in Romania e in Bulgaria? Scusami. Ah, sono andato a vedere un po' com'era la situazione. Sì, com'era la situazione. Sei andato a scopare, diciamo la verità. Sei andato lì a scopare. Com'era la situazione? Ma che sei un antropologo? Ma cosa vuol dire? Le chiese ortodosse da vedere. Le chiese ortodosse. Vabbè, comunque, allora... Comunque, l'unica volta che io mi sono messo nel tentativo di voler fare una relazione seria con una persona, questa ragazza veniva dalla Polonia. Sì. E allora? Io sono un magazziniere, quindi porto a casa 1250 euro, 1300 euro, non sono un miliardario. Vabbè, allora? Quindi per questo io voglio avvisare tutto il popolo italiano, tutto il popolo. 60 milioni di abitanti, di stare ben lontani dalla Polonia. Ma perché? Chi te l'ha detto? Semplicemente, ma che cosa ti ha fatto questa qua? Non ho capito. Io ho avuto un'esperienza diretta e posso giurare, posso inginocchiarmi e giurare. No, non c'è bisogno. Di che cosa? Ecco, che sono delle grandi manipolatrici. Ma che vuol dire manipolatrice? Semplicemente perché questa magari a un certo punto se n'è andata, ti ha conosciuto, ha pensato che non puoi... Ha capito chi sei. Ha capito e se n'è andata. Cioè... No, si è fatta le vacanze con me in Italia, allora? Si è fatta la dolce vita. Ma che dolce vita, se guadagni 1300 euro al mese? Quale dolce vita ha fatto? Ma che dici? Mi sono preso anche ad agosto, ho preso la tredicesima. Cioè, praticamente, siccome ti ha lasciato è manipolatrice, allora. Ecco, siccome questa qua della Polonia ti ha lasciato, adesso è diventata manipolatrice. Se mi avesse e tutte le polacche, lasciato. E tutte, che ti ha fatto? Non ho capito. Ti ha levato i soldi in banca, che ti ha fatto? No. E che semplicemente ha fatto? Lei era già fidanzata. Ma io chi con se la... ne frega? Ma perché fiducia... la sua storia ci dovrebbe interessare? Era già fidanzata, allora? Lei è venuta in Italia pur essendo fidanzata e si è fatta le vacanze con me. Allora? Quindi... Io l'ho portata per Roma, per Firenze, per Venezia. E dunque? Gli ho fatto le bellezze d'Italia. E poi quella è tornata dal fidanzato. E allora? È tornata dal fidanzato. E allora è manipolatrice? La grande zoccola. Ma che zoccola? È normale? Che zoccola? Normale, sei tu che sei... Ma sei un cretino! Ma chi se ne frega? Ma scusa, non ho capito, qual è il problema? È tornata dal fidanzato. Si è fatta le vacanze con te e poi è tornata dal fidanzato. E allora? Vabbè, cazzo, ma come allora? Questa è una vergogna. Cioè, ma che sono vergogna? Ma quale vergogna? Ma quale vergogna? Cosa che facciamo? Dici? Un'interrogazione ottima parlamentare. Questa qua, viva la Polonia! Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Guarda, adesso ti dico la verità, no? Io sono stato quasi un anno con una macedone. Io faccio il fornaio, lavoro di notte, crucià. Lei mi stava lì a casa, la mattina quando tornava mi aveva cambiato le lenzuola, pulito la cucina, pulito il bagno. E la mattina stava, mi faceva dormire, a luna mi svegliava e si stava il pomeriggio insieme. E io la sera andavo e lei cucinava, faceva qualcosa, 21 anni. E poi c'era Gio Riccardo, c'è biano per culo, ci fa credere che comandiamo, però sono molto brave, si accontentano di meno, ridono sempre, non rompono i coglioni, sono stato 6 anni con Italiana, porco. La morte dei coglioni, guarda. Queste sono meglio. Ridono, scopano, hanno voglia di scopare, non è come le italiane che glielo di chiede 100 orde, oppure gli devi fare tra ammazzo dei fiori, oppure devi fare la sorpresa, oppure devi fare il carino, devi fare il gentile, se non te la dà. Ah, e poi sai con che dormiva sempre? Con una canottierina lunga, un po' strappata sotto la poccia, un po' strappata lì vicino al culo, e mamma mia, dimmi tu se non devi ne voglia di scopartela tutti. Io ogni ora mi svegliavo a luna e mi svegliava e me la scopavo perché mi svegliava sempre mezza nuda. Scusa, il racconto crudo di questo marchigiano, di cosa significa, secondo lui ovviamente, ma anche questo è pieno di banalizzazioni e di generalizzazioni, di cosa significa avere una donna dell'est accanto piuttosto che una donna italiana. Dicevi, Parenzo, scusami. No, deduco che il regista è sempre il dottor Lacorte, mi pare. Assolutamente, no? Signor Pietro Lacorte. Per la scelta Lacorte. Di questi audio, di queste storie, anzi, di questi dettagli, ecco, tutto qua. Naturalmente. Allora ragazzi, andiamo con un tipo da zanzara, eh? Sì. Vai con la sigla, vai, vai. Tipi da zanzara. Victor da Perugia, Victor, vai, Victor. Pronto? Dimmi, Victor. Pronto? Che sei, romeno tu, che sei? Victor Orban. Sì, come sei? Sono romeno. Signor romeno. Sì. Romeno, sono camionista, lavoro da 15 anni in Italia. Bene. E sono dalla parte del signore che ha ammazzato quel romeno. Sì. Mi dispiace tanto che sono scappati quegli altri due. Dal punto mio di vista, questa è la morte troppo facile, hai capito? Cioè, secondo me... Devono essere chiappati, sì. E strappati le unghie. Che dici, signor Parenzo? Se io adesso ricevo una telefonata da casa mia, dalla figlia, dalla moglie, mi dà la notizia che sono venuti i ladri, sì, a casa mia. Io sto sopra il camion da domenica sera a Crociane, dalle 10 sono salito. Sì. Allora? Alle 10 sono partito da casa. E come mi sta? Se trovo i ladri a casa mia. Che fai? No, io li strappo le unghie, li rompo i ginocchi e la morte, ecco, è troppo facile. Cruciani, c'ho sangue freddo per questi signori, per questi bastardi, sangue freddo ci vuole. Cioè? Freddo, ammazzati non fa niente, la legge li difende, dopo tutto. Manca un mese, non sta dentro, dopo sta... E allora che va fatto? Vanno torturati? Che va fatto? Torturati! Per quello che riguarda i Rom non sono romeni, sono un popolo a parte. No, ma chi sono amati, pare che come sono li consideri sono... i Rom tu, i Rom, signori Rom? Bastardi, questi devono morire. Cresciuto alla scuola di Einaudi, questo signore. Un popolo che non fa niente, respira ossigeno del mondo, lo respira, lo consuma. È un democratico, sincero questo romeno. Lo consuma ossigeno, cioè, sono inutili. Mangiano le semi, sputano per strada, sputa tutto... quello che si può fare male, hai capito? Tu non puoi venire a casa mia a tirare fuori un succhi denti, porco diavolo, un succhi denti è mio, quello quando è mio, è il mio, solo mio. Parenzo, hai capito o non hai capito? Tu no, hai capito, fai fatto un altro tipo di vita, Parenzo. Tipi da zanzara. Bene ragazzi, andiamo subito con Alessio da Milano, numero uno, l'autista, l'autotrasportatore romeno che prenderebbe un ladro, gli strapperebbe le unghie, gli spezzerebbe le gambe. Beh, amico mio, vai. Alessio, vai. Ciao ragazzi, come state? Bene, volevo dimmi, ricordarvi che l'altra sera ho sentito una bella imitazione di Parenzo che quando prendeva in giro al solito malcapitato, sì, e dice, ha fatto la telefonata che chiamano a casa sua e dice, risponde la Filippina, ah sì, sì, dottore non c'è, dottore non c'è. Vabbè, allora no, ecco, no, volevo, volevo ricordare al dottor Parenzo, sì, la Filippina che ogni come, tanto come succede a Cap, sì, come succede a Capalbio, sì, i primi razzisti sono proprio questi radical chic. Sì. Perché invece di dire la domestica risponde, la Filippina risponde, lui dice. Amico mio, è una parodia, eccolo se non l'hai capito. Amico, cosa c'entra il razzismo o lo snobismo con una parodia? Non c'entra un cazzo, dai. Non è vero. Beccole pronto in tavola, tavola pronto, abbiamo preparato tagliatelle dal tufo. Basta parlare con coglione. Ha preso i culi filippini praticamente. Ma in che preso per il culo i filippini? Dottore, certo, basta con tartufo, scuoce, no buona dopo, basta con tartufo. C'è il dottore filippino, c'è l'ingegnere filippino. E chi dice il contrario? Sì, certo. Ma che cazzo dici? Però quando si fa e si dice la domestica la filippina a casa... Beh, perché non ci sono domestiche filippine? È comunque una discriminazione. Ma quando? E che risponde il dottore, e che risponde il dottore, non c'è. No, perché è chiaro, perché sono così, sono persone... Perché dottore non c'è. Si ritengono superiori agli altri. Dottore è scritto biglietto. Non può parlare con mentecatto totale. Quattro ignoranti che chiamano e che chiaramente per carità. E invece tu sei intelligente. Invece tu sei intelligente. Io mi difendo, però io non dico queste cose. Ecco, non dico queste cose. Certo. Ecco, lei a casa ha un po' di servitù o no? No, non ce l'ho la servitù. Non mi arrangio. Mi arrangio. Sì, ma non è però che sarebbe la signora delle pulizie o il signore delle pulizie? La sarebbe signora delle sarebbe pulizie. La Filippina. La collaboratrice domestica, la si dice. La collaboratrice domestica. La domestica, certo, il signore delle pulizie. La signora delle pulizie. Il domestico, quello che è, certamente. Vabbè, dai, non fare, non fare politicamente corretto con noi, che non c'è, non c'è trippa per gatti, dai. No. Io lo faccio notare perché proprio sono loro che poi fanno i politicamente corretti. Non lo faccio notare a te, Cruciani, che sei politicamente scorretto e ti apprezzo per questo. Lo faccio notare a Parenzo. Sì, ma non è che se uno fa la parodia del filippino. Sì, ma se non è che uno. Non è che. Sì, ma ho capito benissimo. E poi la prende per il culo i filippini. Ma ho capito benissimo la critica perché mi sono arrivati un sacco di messaggi. Però, ragazzi, se uno fa la parodia del filippino, non è perché considera il filippino un essere inferiore, un coglione, una testa di cazzo. Cioè, è abbastanza chiaro, no? Dai, su. E poi è vero. Però oggi si sente sempre superiori. Ma no? Come gli immigrati vanno tutti bene, tranne che a Capalbio. È la stessa cosa. Va bene, Biagio, Firenze, vai. Biagio, grazie, ciao. Ciao. Ciao Luciani, dimmi, buonasera. Dimmi. Senti, no, volevo semplicemente farvi questa osservazione. Voi con la Boldrini, sia tu che Parenzo, avete, secondo me non avete capito bene. Perché la Boldrini, tra le parole della Boldrini, traspariva proprio l'idea. Sì, però scusa, amico mio, devi parlare bene, devi attaccare bene quella bocca al telefonino o al telefono dove Aspetta, sei. Mi senti meglio così? Sì, ti sento, dai, forza. No, dicevo, voi non avete capito la Boldrini, avete capita male, perché sì, tra le parole della Boldrini traspariva proprio, trasudava invidia. Invidia per che cosa? Per le donne dell'est, dici? Ma assolutamente sì. Ma no, ma questo mi sembra una cazzata. Ma dici? Cosa dice? Questa mi sembra una minchiata, francamente. Ma assolutamente sì. Cioè era invidiosa di quel ritratto che è stato fatto sulle donne ma dell'est. Ma non tanto dal ritratto, era invidiosa di quella situazione. Ma perché che stupidaggine. Ma l'avete vista la Boldrini? La Boldrini non è manco una brutta donna, dai, su. Cioè, no, però ragazzi, è proprio... Vabbè, ho capito, non è una brutta donna per niente, ma a molti piace. A molti piace la signora Boldrini, a me no. Però vorrei capire perché dice queste cose. Ma dice perché c'è la tara in testa, perché la malattia... Perché c'è bisogno a un certo punto di dare anche un senso alla propria attività, di dare un senso, non dico alla propria vita perché è un'altra cosa, non voglio secondo esagerare. Secondo me lei può dare anche un senso alla propria vita. Scusami amico mio, se la Boldrini non se la prende con qualcuno per sessismo, se non se la prende qualcuno per la questione dei nomi delle donne, se non se la piglia col web cattivo che è odioso e razzista, con chi se la piglia? Cioè che senso ha cioè, la sua esistenza politica? Nessuno. Esatto. Esiste in quanto c'è qualcuno che odia le donne, c'è qualcuno che dice delle cattiverie sul web. Lei esiste perché ha questa posizione, oddio, dobbiamo rendere il web più pulito perché ci sono le fake news, perché c'è il razzismo. Ma no, abbiamo scoperto che nel web c'è di tutto, una grandissima scoperta. Esiste perché esistono queste cose qui, perché fa la paladina della correttezza, la paladina dell'essere per bene nei confronti dei maleducati come noi o di altre situazioni che non la aggradano. E dunque, quando c'è un programma che fa ironia su cose certamente banali, sì, come le ragazze dell'est, che sarebbero così così e colà nei confronti delle donne italiane, non la si prende a ridere dicendo ah che coglioni, quattro di là. Oppure uno dovrebbe non occuparsene. No, c'è la cosa, la RAI ha fatto benissimo a chiudere, ma vi rendete conto o no? Cioè, vi rendete conto che si è passati dall'editto bulgaro all'editto di Montecitorio? Ed era più degno l'editto bulgaro, almeno c'era tutta dietro il conflitto di interessi. Nessun, no, certamente era buono. Però almeno lì c'era la questione del conflitto di interessi, Berlusconi che diceva che le televisioni tramavano contro di lui, che c'erano tutti contro Berlusconi, almeno c'era più dignità politica. Tu dici in quella dignità, roba lì. Ma sì, non c'era. C'era nel cacciare le persone dal servizio pubblico, no, perché politicamente non ti piacciono, ma non c'è nulla Pietro di buono. Da Roma, vai Pietro. Pietro alla corte, chiama pure adesso, vai, il regista. Pronto? Dimmi. Oh, ciao, senti, poche parole. Una certa Costanza Miriano ha scritto un libro. Sì, sottomessa, sì. Sì, sottomessa e sposa. No, voglio sapere perché non vengono ritirate tutte le copie di questo libro, scritto dalla Milizia Cristi. Perché, ma perché dovrebbero essere ritirate? Scusa, c'è libertà di espressione anche per queste cose. Cattolica, un'ultra cattolica che parla e descrive le donne, sì, sottomessa, che voglio dire richiama molto, no, tutte le critiche, ma perché che dovrebbe essere ma non bisogna ritirare nulla nei confronti delle ma donne. Non bisogna ritirare niente, sei impazzito? Ma sto scherzando, io non voglio ritirare niente, però ti voglio segnalare l'incongruenza da una parte della signora Boldrini, del presidente. Ma che c'entra? Quella è un'altra roba. Quella là è una signora privata che si occupa, che ha le sue idee, una che lavora. Capito. Sì, è vero, lavora però alla RAI. Ho capito, però anche lì, in quel caso, avrebbe dovuto dire quantomeno. Ma non lo so, ma meno male. Ma meno male che non è intervenuta. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao, ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Oh Cruciani, io sono sposato con una dell'est e mi comanda bacchetta. Magari fossero veri quei punti. Magari! Luciani, ridurrei il dibattito all'essenza sulle donne dell'est. Mi è venuta una grandissima voglia di chiavarne una. Siamo al top. Ciao. Io l'ho portata per Roma, per Firenze, per Venezia. Gli ho fatto vedere le bellezze d'Italia. Questa è tornata dal fidanzato, è tornata da grande zoccola. Ti rendi conto di quello che esce fuori da questa trasmissione, della grande libertà che questo signore su ci ha donato, questo signore che ha comando di questa baracca di Confindustria, questo signore ci ha donato questa enorme libertà di esprimerci come vogliamo, di dire quello che vogliamo. Questo deve essere chiaro a tutti, ovviamente con dei limiti che sono quelli del codice penale. Questo mi pare abbastanza chiaro. Se qualcuno pensa che noi o qualcun altro sta violando il codice penale, bene, si faccia avanti come qualcuno si è fatto avanti. Fino adesso è stato respinto con perdite al mittente. Va bene ragazzi, io andrei a sentire qualche ascoltatore, caro Parenzo, sì, qualche ascoltatore. Bene, però prima bene. Voglio farti riascoltare che cosa, perché ragazzi non sono state valutate. Ecco, la Boldrini si occupi di un'altra cosa, si occupi di rintracciare e magari indagare o fare. Non si dovrebbe occupare di nulla, ma se proprio si deve occupare di qualcosa, se non taglio di nastri, parole inutili, convegni e cose di questo tipo, se proprio si deve occupare di qualcuno, si occupi di questo signore che ieri ha transitato in questa trasmissione, un islamico, il signor Mohammed. Mamma mia. Il signor ragazzi. Mohammed Alfredo, mi sembra, Sì, un signore barese, un convertito, è un convertito, è un barese convertito. Sai che i convertiti sono i peggiori in assoluto, i convertiti. Questo può non essere, come si fa oggi a convertirsi all'Islam? Beh, questo adesso No, Davide, adesso non fare in questi giorni sei troppo buono, non te la prendi troppo con me, la cosa mi dispiace. Però no, in questo caso dovresti prendertela quando con me. Quando dici cose sagge, no, io non posso, ragazzi, prendermela a prescindere. Come si fa oggi nel 2017 a convertirsi all'Islam? Questa è una scemenza, però, scusami. Come si fa a convertirsi all'Islam? Ma se uno, ma non c'è nulla di male oggi, in quello, se ma uno devi essere matto, infatti, la dimostrazione della follia è questo qua, è ma questo io signore. Io conosco altri convertiti che non sono convertiti, così matti. I convertiti come all'Islam, qua, ragazzi, dai, i convertiti all'Islam sono degli imbecilli, te lo posso dire. Chi si converte oggi all'Islam è un cretino. Ecco, perché devi mettere sempre il carico da 90? Perché devi sempre scassare tutto col carico da 90? Allora, c'è una mia amica avvocato che è in taxi e sta ascoltando la Zanzara, naturalmente a Roma, avvocato? No, non si può dire. Un mio amico avvocato. Hai avuto dei rapporti con questo? Assolutamente avvocato? No, ma no, stai scherzando. È un divorzista, ti potrebbe servire prossimamente. Ma uomo o donna? Ti potrebbe servire prossimamente perché per ho Dio. Visto e seguito che hai litigato sulla storia della Perico con la tua compagna. Amico mio, qui seguiamo tutto. C'è stato uno scontro. Natania Zevi, Davide Parenzo. Ma cosa dici? Ma che è l'ispettore Clouseau? No, no, è semplicemente scritto su Twitter. Seguiamo tutto. Ma ti potrebbe seguire un ti potrebbe servire un avvocato divorzista. Questa è mia amica che è un avvocato divorzista. Dice che è in taxi e naturalmente il taxi è selezionato e sintonizzato con la Zanzara. Ma naturalmente. Però ti dico che questa mia amica ti potrebbe servire perché vedo che ci sono delle scintille sulla Perego. Per esempio, la pensate in modo diverso. Totalmente. Ne avete discusso a casa anche sotto le lenzuola? Ne avete discusso di questa cosa? Assolutamente no, perché peraltro ero a Torino. Non avete avuto tempo di discutere. Non avete avuto tempo di discutere. Allora, ragazzi, però è serio questa cosa qua. È serissima. La Boldrini si occupi di questo signore. Do un consiglio alle tante persone che lavorano all'ufficio stampa della Boldrini, che sono tantissime, pure troppe. Sì. Beh, questo sì. Beh, sono tantissime, tantissime, come ho già detto e ripeto. Voglio dare un consiglio: si occupino di questo signore, di fare una campagna magari per quello che dice questo signore, che vuole addirittura nel futuro, e dice lui non in Italia, vuole ritoccare il clitoride delle figlie. Ecco. Beh, amico mio, questa è la realtà che è venuta fuori. La realtà nuda e cruda. Ma guarda che è non questa. Può, è un reato. Non può in Italia, non potrebbe, che è un reato. Però dice che io vado a farlo in Africa, non so dove. Ci rimanga lì. Mohamed Alfredo, convertito barese, 42 anni, il quale si è espresso in questo modo alla Zanzara. Facciamo una carrellata, vai. La circoncisione è obbligatoria per gli uomini, ma diventa meritevole per le donne. La donna ha dei diritti e delle caratteristiche che le permettono di fare solo determinati tipi di lavoro. Lo dice lei. Secondo te la donna è meno intelligente dell'uomo? Assolutamente, ci sono delle deficienze capacitative che sono espressamente elencate nei versetti. Cioè la donna è meno intelligente? La donna assolutamente, lo dice il Corano. Quante volte fa sesso con sua moglie, scusi? Tutte le volte che voglio io. Ma decidi tu quando? È a disposizione. Certamente. E lei non può decidere. Lei non può. Ma è normale che io, da bravo marito musulmano che teme Allah Ta'ala, non è che glielo vado a chiedere quando mi rendo conto effettivamente che lei non sta bene. Lei si può rifiutare? Solitamente è rarissimo che lì si possa rifiutare. E invece l'uomo si può rifiutare? Certamente, anzi, non è previsto che la donna sia la richiedente. Lo può fare una, massimo 4 volte all'anno. Vorresti trasferirti con tutta la tua famiglia in Arabia Saudita? Perché è l'unico posto dove io posso vivere tranquillamente e in pieno la Sharia islamica, che mi permette di raggiungere il paradiso, perché è una nazione più pura. Perché se amico mio, ma le donne non possono guidare lì, non possono fare niente. Ma guardi che io sono sempre stato contrario al fatto che le donne possano guidare, per il semplice motivo che nella Sharia islamica è prevista che la donna abbia sempre un tutore. Il tutore può essere il marito, se il marito non c'è da lavorare ci può essere uno zio. Se tua moglie ti tradisce, che succede? Se venisse applicata la legge della Sharia, rischia grosso. Cioè la pena di morte, diciamo la verità. Rischierebbe anche quello. Però merita la pena di morte una che tradisce, secondo te? Guarda, questo c'è scritto sul Corano. sempre con sto Coran, il profeta Coran, Mohammed, no, citazioni di Mohammed, Coran. Ma questo qua sta in Italia. In Italia non esiste il Coran che è superiore alle leggi. No, mi scrivono giustamente in diretta persone autorevolissime che stanno ascoltando la trasmissione, mi scrivono: ma chi è questo novello Voltaire? Ma non è novello Voltaire, è un signore pugliese che si chiama Sant'Amato, un signore di cui dovrebbe... Era ironico. Ho capito, certo che era ironico. Allora, picchio, poi dice: picchio mia moglie con un bastoncino di liquirizia. Ecco, questo è curioso. Questo è curioso. Dice che la picchia col bastoncino di liquirizia. Il signor Mohammed Alfredo, sì, però ragazzi, già il fatto stesso, l'idea stessa... Le donne... Poi senti come... Lui è italiano, no? Sì. Lui è italiano. Ma senti come dice: le donne... E le donne... E come la punisce la moglie alle volte? In che modo la punisce? Ma sono delle botte, come dire, è più un discorso simbolico piuttosto che un discorso violento. Vuol dire che non si applica tutta la forza che un uomo ha. Significa dare uno spintone, significa dare uno spintone. Le botte con un bastoncino, ma della liquirizia, e con la massima forza che tu puoi dare col bastoncino della liquirizia. Allora, questo è matto. Poi dice che la poligamia è eccezionale, stupenda. E la poligamia è ammessa secondo te? Ma la poligamia certamente, la poligamia è una cosa veramente eccezionale, una cosa che veramente toglierebbe dall'impurità milioni e milioni di uomini, cioè, di famiglie. In che senso? In che senso? Ah, tu dici evita il tradimento, evita il tradimento, no? Primo, evita il tradimento. Secondo, la poligamia è positiva perché ci sono, per esempio, facciamo l'argomento demografico, ci sono dei paesi dove le donne sono di più degli uomini, beh, quindi certo, si può risolvere questo problema. La poligamia fatta con gli orfani, la poligamia fatta con le vedove. Ah, ragazzi, siamo al delirio totale. Si occupi di queste cose il presidente della Camera, non la presidente, il presidente della Camera. Io uso il maschile sempre, no, non me ne frega nulla. No. Massimo da Brescia, vai Massimo. Sì, buonasera, io propongo di rinchiudere la Baldracchini in un centro per rifugiati. No, ma non diciamo, ma non... che con le loro terze gambe si divertano. No, amico mio, no. Tu stai, questa Massimo, tu, a parte che l'hai chiamata Baldracchini e non va bene, si può dire Boldrino, tu ti stai inutile, augurando, aspetta, ti stai augurando lo stupro della Boldrini da parte degli immigrati. È un imbecille. La Baldracchini, che non è quasi ancora più appetibile. Si prende la responsabilità di quello che dice. Si prende le va rinchiusa cosa? Aspetta, no, ma vai fino in fondo, così almeno sa Massimo che va rinchiusa. La querela finale, dai, va rinchiusa in che cosa? Sto imbecille. La Baldracchini va rinchiusa in un centro profughi. Sì? E lì bisogna lasciarli lì per i ragazzi. Sì, ma perché? Spiegami perché? Perché è favorevole. Hai detto una puttanata abominevole, perché? Si divertano ad aprirle tutte le visuali e le visioni. E vedrete che lei si rinsavirà, oppure le piace, quindi ci sta. Io spero che questo venga Massimo, denunciato veramente. Questa è una vergogna quella che tu stai dicendo. Bravo, perché si combattono le persone con le opinioni. Con le opinioni, chiaro? Tu... io so l'opinione che va rinchiusa, no, nei lei, posti che lei tanto ha. Lei non ha detto un'opinione, lei ha insultato non tanto la terza carica dello Stato, ma lei ha insultato una persona. Siccome ha insultato, no, ma non è nemmeno insultato, si è augurato volgare la violenza su una persona, sì, è diverso. No, allora, l'ha insultata chiamandola, appellandola in quel modo. Siccome lei deve essere rinchiuso nell'ospedale più vicino, deve essere allertata immediatamente. Aspetta un attimo, però, che stavi dicendo? Ma perché Baldracchini? Io Baldracchini mi auguro che la denunci. Vabbè, guardi. Allora Baldracchini? Come la Baldracchini viene dall'attività del volontariato, il soccorso ai migranti. No, lavorava all'ONU, lavorava all'ONU. Allora... all'ONU, all'alto commissariato. Ma io penso tutto il male possibile delle cose che dice la Boldrini. È specifico delle cose che dice. Distrugge le nazioni. Ma quello può darsi anche che lei abbia ragione. Ma cosa c'entra questo? Scusa, spiegami. Allora, il fatto che lei venga da queste attività, innanzitutto si dice ma lei che la sorella abbia fatto i soldi con... Ma lei da dove viene? Massimo, lascia perdere. Perché vuole prendersi querele su querele? Tu stai dicendo, ma lascia perdere le querele. Tu stai dicendo una cosa, Massimo, stai dicendo che siccome vuole l'immigrazione, è a favore dell'ingresso degli extracomunitari... Che ti scopi lei? Che? Se gli scopri lei, ma cosa c'entra? Ma è una schifezza, ma non c'entra nulla, è un insulto ridicolo, gratuito. È vero, perché tanti uomini, scusa Crociani, tanti ragazzi palestrati di 20 anni che hanno attraversato che il deserto, che è hanno subito qui. Lei è un cretino. Arrivano qua, vedono, ce lo canta bello figo, vogliamo la figa. Lei non bianca, è solo è una persona allora, volgare, lei è una persona schifosa. Sì, e io no, ma vaffanculo. Ciao Massimo, ciao, vergognati per quello che hai detto, vergognati. Allora, donna dell'est ungherese, ex parlamentare, ex pornostar. Chiamiamo Cicciolina, va, vediamo che ne pensa di queste storie. La signora Cicciolina. Cicciolina Ilona Staller, vai. Onorevole. Vai col telefono, vai. Pronto? Ilona? Eccomi. Eccoci qui, Giuseppe, come stai? Bene, grazie. Eccola, Cicciolina, Parenzo. Sì, Parenzo. Onorevole, buonasera, onorevole. Beh, onorevole, grazie, adesso. Grazie. Onorevole, l'onorevole Staller. Grande, bacio. Ma tanto tempo fa è successo. Per me rimane sempre onorevole, l'onorevole Staller. Scusami, Ilona, allora, donna dell'est, perché tu da tanto tempo in Italia, sì, però comunque ungherese è la signora Staller. Che ne dici di tutto questo pandemonio intorno alle donne dell'est? Che dici? Io non avevo mai tabù, io giravo nuda a casa, vestito nuda. Vabbè, ho capito, però tu sei Ilona Staller, non è che tutte le donne. Non è che tutte le donne sono anche molto sensuali, mi piace fare sesso libero, insomma. Sì. Cioè, sono più libere, tu dici, sono più libere sessualmente delle italiane? Io penso che, per esempio, la donna dell'est gli piace andare a flirtare con gli uomini, gli piace. Gli piace andare a fare in discoteca. Vabbè, però adesso voglio dire, quello che abbiamo letto là, per esempio, sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo, è vero o no? Beh, non è proprio esattamente così. Ci sono quelli che vanno in palestra e ritornano belli tosti. Ci sono invece anche quelli che magari mamma natura non gli ha dato questa grande possibilità, per cui rimangono un pochettino più fragili o mosci. Dunque, una generalizzazione questa qua. Perdonano il tradimento, è vero o non è vero? Guarda, dipende. Ci sono quelli che vanno a coltello direttamente e ci sono anche quelli che sono molto... Dice, vabbè, tutto sommato mi ha tradito. Allora, vada, chi se ne frega. Vabbè, mi sembra di capire. Però girano nude per casa, lei dice, no, signora Staller? Io perennemente. Scusa, anche tuttora io dormo nuda a casa mia. Vabbè, dormire nudi, una notizia. Dormire notizia. Nuda e con goccia di Chanel. Mi sembra di capire che questa lista di Rai 1 sia una generalizzazione assoluta. Al di là di questa storia, comunque io non avrei mai chiuso la trasmissione della bravissima Perego, la signora Perego. Che a me piace tanto Perego. Mi è sembrato un momento di bigottismo della Rai, però torniamo al punto, onorevole. Cioè, lei gira nuda per casa. Vabbè, ma gira nuda per casa, che vuol dire? Gira nuda per casa, Ilona Staller. Solo, prendo sole in terrazza dove... Nuda. Vari condomini che sono magari sì. un piano più superiore, che mi guardano nuda, mi giro prima la pancia in su, sì. poi la pancia in giù. Capisco. Mi possono vedere a 360 e che dicono i signori condomini? Sono nascosti, sono divertiti? Sì. No, insomma, che fanno? Ma si masturbano? Che fanno? Per offesa comune, senso del. Ho detto, ma comune senso, cioè, del i tuoi condomini ti vogliono denunciare perché tu stai nuda a prendere il sole? Sì, però mi sembra in terrazza mia, sì, tra i miei animali, che ho gatti, cani, sono tu perché tu sei molto animalista, vero? Quanti animali hai? Io ce l'ho 7 cani, American Bully, Staffordshire Bull Terrier e persiani. Sette cani e poi? Gatti pure? Gatti, come no? Gatti persiani, cincillanti si chiamano la razza. Quanti ce n'hai? Sono molto molto belli. Gatti 7. Gli animali ti danno tanto amore. Vabbè, quello d'accordo, quello sì. Sai, cioè... io sono un animalista, un'altra, e ti dirò che io faccio molto anche, non solo beneficenza verso gli animali, ma faccio molta beneficenza anche per la gente povera che non hanno da mangiare, che non riescono ad arrivare a fine del mese. Vabbè, questo sono, come fai? Vabbè, sì, col vitalizio, sì, è vero, col vitalizio riesci a farlo, col signor vitalizio. Ma i soldi spesi meglio, dico io. Non sono quelli che prendono i vari Amato e gli altri, eccetera, che sono... Vabbè, comunque 10 milioni all'anno, scusate. No, 10 milioni no, ma insomma... ma cosa ti serve sto vitalizio alla fine? Quanto è? 2.000 rotti euro? Cosa ti serve? No, non sono 2.000 nette. 2.000 nette. A cosa ti serve 2.000 nette di vitalizio che noi paghiamo la signora Staller? 2.000 nette. Cosa ci fai tu? Io ho un figlio da mantenere, visto che, insomma... ha 24 anni, sì. e non c'è lavoro in Italia per un 24enne, non c'è lavoro. Oltretutto un bellissimo ragazzo di Kunz, e i reality in Italia li chiamano le mezze seghe per i reality, sì. invece Ludwig è un bellissimo ragazzo, ancora non si sa, forse perché è il figlio della Staller. Ma scusa, ma perché non lo fai studiare invece di mandarlo ai reality sto ragazzo di 24 anni? Sì, scusa, no, questo sarebbe meglio. Il mio figlio studia. Ho capito, perché deve andare a reality per forza? Perché fa delle bellissimi quadri, disegni. Pure, sì, ma perché lo vuole mandare, lo vuoi mandare a reality? Non ho capito. Perché voglio mandare a reality? Perché voglio farla guadagnare dei soldi. No, ho capito, ma non è che se fallo studiare e poi magari fa l'avvocato, che ne so, può fare il... No, non gliene frega niente di fare l'avvocato, è un artista. Vuole fare l'artista. Può fare il direttore del Sole 24 Ore. Sì, probabilmente farà delle bellissime esposizioni dei suoi quadri. Scusa, ma il padre non è uno dei più grandi artisti? È milionario il padre, il signor... perché non lo mantiene lui? Tu dici che non c'hai i soldi per andare avanti. Ascolta, il padre è milionario, non Ludwig, non farmi parlare, please. Ma il padre non gli dà un euro? Non gli dà un euro il padre? Se fossi miliardario come Kunz, io stai pur tranquillo, avrei detto: caro figlio mio, tieni, ti regalo una piccola casetta. Invece lui è un cazzo. Invece è un cazzo. Hai detto te. Signor Kunz, uno dei più grandi artisti contemporanei, è milionario. È possibile che non dà un euro? Il problema dei grandi, di quelli che sono miliardari, sono purtroppo sono molto tacagni, molto tirchi, se la tengono i soldi e pensano che sono eterni. Quanti soldi dà sto ragazzo? Quanto? Lascia stare. Qualche cosa darà. Non paga mantenimento di ex moglie, che avrebbe dovuto pagare, non paga, non mai pagato una lira di mantenimento di ex moglie. Con che vitalizio siamo freschi mantenendo mio figlio, un ragazzo di oggi. Certo. Cioè non bastano, dici, staremo freschi col vitalizio. Senti una cosa, ma che cos'è questa storia della causa che vuoi fare per a Google per la storia degli animali, dei video con gli animali? Non si è mai capito chi è quel pervertito che ha inventato Cicciolina il cavallo e continua ancora ad andare su Google Cicciolina il cavallo e mettendo a me in un fotogramma a fianco un fotografo di un cavallo, per cavoli suoi che corre, e c'è talmente tanto cliccate su Cicciolina il cavallo che è incredibile, manco su Shakespeare ce l'avranno tanto di cliccate. Ma io non ho capito, tu non hai mai fatto sesso con gli animali allora? Io non ho mai fatto sesso con i cavalli, scusami. E che ne so, è una domanda, hai fatto di tutto. Che ne so, Io sono animalista, ma quando mai sarei? Ma ho capito, magari quando era 20 anni fa, 30 anni fa, ti può essere capitato, è successo, alcune pornostar è successo, mica... No. Cioè, però torniamo al punto, signora. Lei quindi in questo momento è nuda mentre è al telefono con noi? Sono col baby doll perché mi stavo per spogliare. Capisco. Baby doll. Chiedo scusa se approfondisco, però no, per carità, perché l'idea è che l'onorevole Stahl al telefono con la radio della Confindustria sia nuda in casa, sa com'è. Perché baby doll vado vicino al mio bagno, sì? È una bellissima doccia, sì. Butto giù il baby doll, sì. Entro piano piano, sentiamo, di nudi, e mi faccio una meravigliosa doccia. Va bene. Tutte le mie oli, essenze e tutto il resto. Una famosa cronaca in diretta. Una donna deve essere sempre profumata. Brava, brava. Ma che profumata, bravissima. Scusa, ma tu ami, cioè, per esempio, tu sei depilata? Per me, per la mia moda, mi piace molto una strisciolina alla cinesina. La strisciolina alla cinesina? È bello perché così puoi prendere meglio il costume da bagno con le cosce larghe e quando vuole al mare. Devo lasciarvi perché devo andare. Ciao, devo andare ciao. Perché mi aspetta il mio bagnetto. Ciao, ciao. Certo, signora. Ciao. Un bacio, ciao. Ciao. Nasivo l'anerchia. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. La zanzara. Luciani, via questo stronzo islamico che se ne va pure a froci nei parcheggi, sto pezzo di merda. Un messaggio per quello di Turi, provincia di Bari. Sei il ripudio del genere umano. Luciani, sei stato un grande, facci sentire quel testa di cazzo di Muhammad Alfredo. È veramente una merda di uomo picchiare una donna con un bastoncino d'uliva. Guarda, glielo voglio dire in barese: un pucciolo da mamma te vai a picchiare. che è schifoso. Allora ragazzi, andiamo a Milano da Roberto. Da Roberto, vai Roberto, vai, dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Vai, dimmi. Volevo dirvi due cose al volo. Intanto l'ex deputato Staller forse ha risparmiato i mammiferi, ma con il serpente comunque non si è tirato indietro. Io me la ricordo al teatrino adesso di Milano, esibirsi con serpenti. Ma sì, serpenti. Serpenti animale, allora ora si parla di razzismo sugli animali. Cioè tu dici comunque il serpente è anche un animale, quando uno fa del sesso, no? Col serpente, eccetera, eccetera. Forse da un punto di vista del corpo è più adatto che un cavallo, diciamo, cioè di suo, però... Insomma. Il signor serpente, sì, me lo ricordo che faceva delle esibizioni con i serpenti. Al teatrino a Milano, come no? Voglia. Vabbè, ma allora io ricorderei anche le grandi battaglie radicali che ha ma fatto. Non, la mi, sembrano, Staller, non mi sembrano grandi battaglie radicali per la fame del mondo, le battaglie. No, ecco. Adesso insomma, lei invece, è un mediale. Quello ma che insomma mi premeva invece seriamente sì, insomma, di ricordare è che la signora Boldrini, sì, la signora Boldrini nel 1988, quindi prima dell'ONU, come si diceva sì, prima, era assistente di produzione di Cocco per la regia di Pingitore su Rai 2, sì, dove le ragazze erano nude ed sì, erano divise in babà e spogliatelle. Sì, no, no, ora, mi ricordo perfettamente, fece, non mi ricordo che ruolo aveva, non mi ricordo se Colpo Grosso oppure un altro programma, non mi ricordo. No, no, Rai 2, Cocco. Sì. 1988, ragazze nude, cioè sì, del ricordo perfettamente, femminile, certo, assolutamente. Sicuramente non c'era avrà nessuna... avrà cambiato idea, Roberto, che ti devo dire? Sì, avrà cambiato idea, però non puoi neanche riversare come Parenzo che era comunista, non è più comunista. Comunista, cioè, difficile idea, essere comunista. Di quei tempi. Vabbè, eri comunista, eri iscritto alla Federazione Giovanile Comunista Italiana, non c'è niente di no, semmai al PDS non c'era più, il PC si era già trasformato in un altro partito, purtroppo non ho fatto in tempo, ma io altrimenti sarei stato di lotta continua se vuoi sapere tutto. Sono troppo giovane, non è possibile. Però allora, ma c'è gente che è stata lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, e allora lotta continua sarà. Vabbè, mamma mia, dove ecco, tira l'aria allora, quell'aria lì però amico mio, comodo mica adesso tanto, è più semplice andare da un'altra. Beh, quelli di lotta continua si sono riposizionati. Eccolo qua eccolo qua che la butta lì il qualunquista. Beh, eccolo qua. Eccolo qua. Quelli di lotta continua si ma sono riposizionati dici a tanti livelli, ma amico mio. Cosa dici? Anche col Berlusca, come sai. Anche col Berlusca. Perché sono persone intelligenti. Perché sono persone intelligenti e brillanti. Ma che vuoi dire sulla Boldrini? Non ho capito, Roberto, dimmi. Sulla Boldrini volevo dire che immaginavo come sarebbe rimasta male lei se il presidente della Camera di allora avesse detto chiudete sto programma perché ci sono le babà e le spogliatelle. Ma hai perfettamente ragione, sfondi una porta aperta. Roberto da Rimini, vai Roberto da Rimini, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Ciao Parenzo. No, io anch'io ce l'ho quello di tutte le Boldrini, hanno rotto le scatole qui. Mi ha fatto tante di quelle trasmissioni sul bamboccone che gli uomini sono fino a 40 anni stanno con le mamme di qua e di là. Bravo, anche questa è un'osservazione interessante. Cioè, quando si fanno delle trasmissioni dove si generalizza, no, sugli uomini, i bamboccioni, le liste in cui c'è una generalizzazione si fanno in tutte le trasmissioni che sarebbero da chiudere tutte secondo questo criterio. No, ma adesso tu ti rendi invece conto? Si sono inventati il sessismo, inventati questa cosa qui che è ridicola, patetica, e chiudono una trasmissione. No, ma chiudono vergogna la trasmissione per una grafica. Cioè, sì, per alla una fine grafica, stiamo sì parlando di un segmento di una grafica, cioè una grafica con sei cose, una grafica, una trasmissione di due ore, chiudono una trasmissione per una grafica. Dopo c'è stata una discussione con l'intervento del signor Testi. Signor, io ho trovato ho meraviglioso. Capito, ma è il signor Testi, non è il presidente della Treccani, il professor Brai, è il signor Testi, non è Umberto Eco, è l'ottimo Testi, che per carità va benissimo, scrive straordinario, un attore, è stato con la signora Andres, quindi tutta la mia amore, rispetto e amicizia per il signor Testi. Ma è Testi? E poi c'era una ucraina lì in studio, mi pare ci fosse una signora, russa, una russa. Sì, ma non è che non era il cenacolo della Treccani, non era l'Accademia della Crusca. Vabbè Roberto, allora quel polacco mi sa che aveva ragione, dai, quello là che certamente mi sa che quello ha ragione. Tra l'altro, qualcuno mi dice: chiedi a Cicciolina cosa si infilava nella topa 30 anni fa, la disco Giorgio di Prato. Un boa. Amico mio, però uno fa l'animalista, intanto non sarà stato con i cavalli, sarà stato col boa, però. Capito? Ma chiedetelo al boa. Ma non lo so, dire, ma adesso chiederemo di nuovo la Cicciolina. Giustamente, qualcuno mi ha fatto notare questo, la richiameremo domani, dopodomani, eccetera. Scusa, animalista, tu che fai l'animalista e dici: no, io mai stata con cavalli, mai. Però col boa sì, amico mio, dai, Mauro Mantova, oh, grande ritorno, Mauro da Mantova. Fermate le rotative, aspetta, immediatamente. Mauro, c'è una ragazza che veniva prima di te, da Lugano, la signora Alena, che mi sembra, mi dicono, sai sia chi russa. Sai perché ha chiuso l'albergo? Sai perché? Perché? Perché è parente di De Benedetti, sai. No, non è vero. È stato Rothschild. Ma non è vero. Aspetta. È stato Rockefeller. Ma no, ma che c'è? È morto Rockefeller. Alena. David si chiama, e infatti parente di Parenzo. Buonasera. Dimmi Alena, buonasera. Ma tu sei russa o italiana? Non ho capito bene. Allora, io sono russa dalla Russia. Aspetta, amica mia, però si deve sentire bene, altrimenti se non ti sente bene, togli viva voce, auricolare, qualsiasi cosa e parla. No, non c'è niente, sto parlando al telefono direttamente. Allora, dimmi. Allora, io sono russa dalla Russia, ho sentito un mare di cavolate. Sì. Un mare di cavolate. Ma su che cosa? Sulle donne dell'est. Allora, ma chi le ha dette? Aspetta, chi le ha dette queste cavolate? La signora Perego, quella trasmissione lì, eccetera, eccetera, o chi? Un po' tutte. Vabbè, dimmi una cazzata che hai sentito. Allora, innanzitutto le donne dell'est, cosa sono le donne dell'est? Io sono russa, sono russa. Le donne dell'est, come dire, italiana uguale a donna inglese. Sì, brava, ha ragione. Le donne dell'est, insomma, sono, vuol dire? C'è una russa, cioè, una ucraina, ci sono le romene, e all'interno sono tutte diverse tra di loro. Dai, ragazzi, mi sembra di dire cose ovvie. La ragazza romena è ortodossa come me, ma non c'entra un cavolo con me, capisci? Noi siamo diverse, punto e basta. Ma da tanti punti di vista, poi la cavolata che donne russe non perdonano o perdonano tradimento. Ma ci sono donne che perdonano, non perdonano, ma ci sono donne che perdonano, ci sono donne che stanno con uomini per i soldi e chiudono occhi a qualsiasi cazzata che fa l'uomo, sia in Russia che in Italia. Ma dai, ragazzi, non facciamo moralismo. Ma a noi, Alena, ma con noi sfondi una porta aperta. Noi siamo i primi a dire che sono generalizzazioni, che sono puttanate, ma non è che per questo, siccome hanno discusso di una roba lì, in cui alcune frasi, quelle frasi lì possono essere delle generalizzazioni, chiudono una trasmissione. Questo è un altro discorso. Vabbè, Alena, che volevi dire poi? Ma cioè, volevo dire, ascolta, io veramente sono rimasta sconvolta. Poi, allora, a riguardo che la donna russa non gira con pigiamone, ascoltami un attimo, quando sono a casa da sola giro con pigiamone, come? Pure accanto al tuo fidanzato col pigiamone? Beh, accanto al mio fidanzato ovviamente cerco di non girare con un pigiamone, cerco di girare un pochettino più femminile, ma non puoi neanche lì generalizzare, dai, ma siccome... Ma poi che c'entri? I pigiamoni a qualche volta possono essere anche molto sexy, ragazzi, cioè, possono essere anche molto fighi, che ne sai, dai, su, assolutamente, possono essere anche molto erotici, è molto più facile anche, come dire, toglierli i pigiamoni, per esempio, ragazzi, è così. Esatto, vabbè, Alena, poi a riguardo che le donne russe dopo i figli ritornano subito in forma, ritornano, anche. Allora, solo io ho due figli e sono ritornata, ma perché... Ho avuto possibilità di fare un po' di sport, di fare la dieta, ma dipende da tante cose. Dipende ma da sì, ma ci sono un sacco, di donne italiane che pure ritornano subito in forma dopo i figli. Esatto, diciamo cazzate, bravo, esatto, esattamente. Ma senti, cara Lena, ma tu sei bionda, sei proprio russa, bionda o no? Sono bionda con occhi azzurri e 1,78. Mamma mia, molto mamma bene, mia, adesso la Boldini si incazzerà. Allora, guarda, se mi invidi alla tua trasmissione ti parlo meglio, perché... Ma di cosa vuoi parlare, per esempio, da Lugano? Molto bene, di cosa vuoi parlare? La signora Alena diventerà una protagonista di questa trasmissione. Ci racconterà in retroscena, come dire, anche della... Non mi capisco. Qualsiasi cosa ti parlo, guarda, ti dico le cose come stanno. Anche perché la signora Alena, abita a Lugano, ma non credo che faccia la prostituta, no? O sbaglio? No. Allora... O l'hai fatta la prostituta? L'hai tanata. Ecco. Allora, io ho il ristorante a Lugano, centro Lugano Sud... hai fatto la prostituta pure o no? Allora, ho fatto la prostituta, cosa vuol dire? ha fatto lo prostituto? Io sono da quando ho 17 anni qua sono a Lugano. No, ma ho capito, hai fatto la prostituta in un bordello, sì o no? Assolutamente no. Ah, no, vabbè, questo volevo sapere. Perché tutte delle... Ah, è vero, perché tutte delle fanno prostitute. Ma chi l'ha detto? Ho detto che in Svizzera magari molte persone che vengono dall'est, romene, fanno le prostitute, ma per me non c'è niente di male, per carità. Ma... Beh, ma guarda che in Svizzera le prostitute fanno di tutte, romene, russe, italiane... brasiliane. Vabbè, Alena, ti abbraccio, vieni presto, mi racconti un sacco di cose. Ciao, grazie, ciao. Grazie. Mauro Mantova, eccolo qua, ecco il ritorno. Mauro, vai. Ecco il ritorno. Allora, dimmi. La cicciolina. Anzi, no, passiamo in questo modo. Non voglio sentire l'essere che c'hai a fianco, non lo voglio sentire. Vabbè, che vuol dire? Non voglio incazzarmi perché non sono al 100%. Dottore, allora io, Plonto in tavola. Siccome che io non c'è voglio voci di miserabile. Chi c'è anche per me? Ho detto voglio parlare con te o no? C'è allora voce zitto. Miserabile al telefono. Mario da Mantova. Io devo parlare con Cruciale. Io ti sbatto il telefono, pezzo di merda, capito? Ho sentito brutta parola, ha detto dottore Cruciale? Palenzo. Mario da Mantova ha detto brutta parola. Sì, Mauro, dimmi, però non è possibile che dici non voglio parlare con Parenzo. Allora, se no faccio parlare il filippino di Parenzo. Chi mi ha fatto permesso di parlare con me? Io non voglio parlare con una merda. Ma ho capito, ma poi chiama il filippino. Ma dice parolacce, Mauro da Mantova. Io non chiaro, adesso fammi vedere cosa voglio dire. Che quello sta solo cazzate. Allora, intanto ti ricordo che il somaro della sua famiglia, lui è il più somaro, perché è l'unico che non ha la laurea. Quale Mauro? Che si fa chiamare dottore, tu lo sai. Io da un avvocato mio fans ho saputo che quell'escremento lì si fa chiamare dottore. Ma non si dottore fa. Che minchia, che non hai la laurea, ignorante. Ma non è tu non prendi la laurea, capra. Dottore, e non puoi farti chiamare dottore, imbecille. Il telefono, cosa devo fare? Chiudere cretino, la pasta in tavola, dottore. Somaro, non c'è pelle tartufo. Mauro da Mantova, ci volebbe in voltino primavera, là dove non batte il sole, in voltino primavera, da dietro. Mauro da Mantova, buono, in voltino primavera, mettele dietro in bocca. Che vuoi dire? Intanto, adesso vado a guardare nel mio dossier. Che dossier? Io ho le cassette del 1990. Ma di e ho quella di cicciolina che fa che sesso col cavallo. No, non vogliamo essere quella di cicciolina, ti prego. Perché? Anche cicciolina no. No, perché dicevo di no. E invece no, io ce l'ho quella cassetta lì. Ma la cassetta? E sai chi è stato? Sai chi è stato a fare il cavallo? Ascolta un attimo, fai la cortesia. Ce l'ha butto giù il telefono, Io non voglio sentirlo. Vabbè, dai, allora... Allora, io la cassetta, quella lì ce l'ho. Vabbè, adesso controlleremo la cassetta per vedere poi, se c'è un'altra questa... cosa. Qual è che vuole? La signora, anzi no, la Boldrini. Dovresti fare ogni volta, devi fare una lista delle delle cose allora, che vuoi la dire. La Boldrini ha fatto la signorina Coccodè. Sì, l'abbiamo saputo. L'abbiamo detto. Quindi, ha un coraggio. Poi, cos'è sta trasmissione? Quelle dell'est sono migliori di quelle italiane. Allora, io sono stato con nigeriana. Con una brasiliana, sei stato in un centro di salute mentale. Pure tua moglie se n'è andata perché sei un pazzo. Sei stato in un centro di salute mentale. No, capito? Che tu sei un flaccio, mentre io sono uno scopone. Ecco la differenza. Però scusa, Mauro, ma tu sei stato con queste donne qui? Ma con delle prostitute? Ma neanche erano pagando. Queste. Ma allora, neanche pagando. Io con l'Ucraina ci ho convissuto 3 mesi. Ma con l'Ucraina? Che dice l'Ucraina? Che dice l'Ucraina? Che sembrava di essere con la mia sghiacciolo. Come? Io volevo fare sesso 4-5 volte a settimana. Volevo fare una volta a settimana. Ma tu sei fuori. Vabbè, ho capito, ma saranno affari suoi se voleva fare una volta a settimana, scusa. Ma cosa? Ma no, io sono abituato a fare 3-4 volte. Vabbè, ma ho capito, non è che la puoi costringere a fare sesso una. Ma cosa faccio? Hai uno straccetto per pulire gli occhiali, lo dicono tutti. Io non sono un frocio. Ma sono uno caldo. Ma allora capito che ci sei? Un ragazzino, mi devono 3 pugnette al giorno. Vabbè, ma chi se ne frega adesso che ma ti facevi 3 pugnette? Però scusa, allora, per cominciare, posso se capire? Caldo, ma non perché... voglio stare con un ghiacciolo. Ma poi, perché è importante che uno chiami per dire dico, cosa fa con il suo? Che poi fa schifo l'idea di Mauro davanti. Ma che cavolo di programma è? Quale? Ma che cavolo di programma è? Quale? Ah, la Perego, la Perego. Già, gli italiani sono messi peggio degli extracomunitari, perché c'è gente che dorme in macchina, mentre invece gli extracomunitari gli danno la casa, l'albergo, gli danno tutto. Ma cosa c'entra? Ma c'entra vai questo? A sputtanarli anche le mani italiane. Ma fate così, visto che volete fare voi del PD il caro Calergi, sterminate gli italiani, così sono già pronti. Ah, il complotto del PD contro le donne italiane adesso, questa roba qua. Dai, ascolta, su, ascolta, Cociani, dimmi. Ma tu hai visto che cosa ha trattato venerdì scorso Italia Oggi venerdì sera? Ma ha trattato Italia l'ordine Oggi mondiale. Ma cosa? Vale dire Bilderberg. Ma cosa? E i complottisti delle lobby economico-ebraiche americane. Ma di cosa stiamo parlando? Le primarie Morgan Stanley. Chiudiamo sempre intorno allo stesso problema. Rockefeller. Allora, se tu voglio negare questo è un discorso, ma la realtà ma non cosa cambia. Cosa devo negare? Cosa? Non ho capito cosa devo negare. Ma secondo te chi è che finanzia quelli che portano a prendere i clandestini a 10 chilometri a 10 miglia dalla Libia? Chi li finanzia? Chi li finanzia? Soros. Chi? Il filantropo Soros. E li finanzia illegalmente. E allora? Ma come allora? Ma tu perché metti in mezzo il casino? Già l'Italia è in casino. Perché tu vai a fare altro casino? Vai a finanziare i trafficoni delle persone? Perché? Perché? Ma ascolta, ma non l'hai ancora capito? No, non l'ho capito, spiegamelo tu, spiegamelo. Allora, gli italiani sono colpevoli di non aver mai votato il PD. Gli italiani sono colpevoli di non averti rinchiuso in un ospedale. Non hanno mai potuto fare i loro parti. Aspetta, fermo. Parenzo vuole dirti una cosa, gli italiani sono colpevoli? No, non voglio parlare con una merda. Dai, dimmi. Io non parlo con le merda. Dai, Parenzo. Sono sfortuna, l'ho preso. Ma non ci parlo. Dottore, champagne pronto in tavola, dottore. Champagne pronto. Parlo solo con te. Chi è che parla? Non voglio parlare con fermi tutti, fermi. Con Paolo, che te reato, quindi. Maulo, emolloidi. Quindi tu stai zitto, vai nel tuo recinto, la faccia e siamo già a posto. Fermi tutti, fermi, ciao Maro, ciao. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top. Ciao, Ricchio. La Zanzara. Io vivo in Tasmania da qualche anno e l'altro giorno ho conosciuto un certo signor Franco che vive qua in Tasmania da quasi 30 anni. Ovviamente non conosceva dell'esistenza della Zanzara e gliel'ho fatta ascoltare per la prima volta. Amici miei, avreste dovuto vedere la scintilla nei suoi occhi. È un uomo rinato. Purtroppo per Parenzo sono quasi sicuro vado a puttane. Ah, sto pisciando in diretta nel lavandino del comune di Monte Argentario. Ho davanti un bel salame. Non riesco a non mangiarlo. Tanti bacini ti meriteresti. Ma ce la faccio a non mangiarti. Ti voglio mangiare tanto. Ti do un sacco di bacini, ma poi ti mangio tutto. Ecco, mi sono ricordato il modus o il modum operandus o operantis. In greco penso che sia così. Una roba del genere, modus operantis, operantum. Che cazzo, adesso devo andare a vedere su internet. Modus operandi in latino, ma Mauro! Latino, cretino, Mauro da Mantova. Allora, ragazzi, la questione della Boldrini là di Colpo Grosso è una bufala, già da tempo è stata segnalata come bufala, sì, cioè come la Boldrini come ragazza a Coccodè, poi non so se lavorasse in qualche trasmissione, ma non so, che? Non ma non diciamo minchiate, dai. Ecco l'ospite, eccolo qua. Allora, aspetta, eccolo fammi qua. Sentire Luca. Sì, da Reggio. Ma lo voglio far entrare in diretta, poi parlerà. Ciao fratello mio, aspetta che lo bacio. Come stai? Ma è incredibile, bacia in diretta gli ospiti. Ma come cavolo sei vestito, fratello mio? Così. Dalla montagna arrivi. Mettiti seduto qui, tranquillo. C'è anche Giulia Civiletti di Chiare Lettere. Ma vabbè, Riccardo da Milano, vai. Luca da Reggio Emilia e Riccardo da Milano, vai. Mettiti le cuffie. Vai Luca, Luca da Reggio Emilia, dai. Fammi sentire. Pronto, Luca, mi sentite? No, mi segnalano che a Blob, tra l'altro, hanno mandato in onda una roba del 2010, della vita in diretta, dove praticamente ci si occupava già delle donne dell'est più o meno nello stesso modo in cui l'ha fatto la Perego, e non è successo nulla all'epoca, non successe nulla. 2010, La vita in diretta, messo in onda da Blob. Vai Luca, dimmi. Ma probabilmente, buonasera a tutti quanti, probabilmente il problema è che tra il 2010 e il 2016 è anche cambiata un po' la sensibilità, almeno degli italiani. Ma che cazzo c'è? Perché ho chiamato nel 2000. Ho capito, però nel frattempo l'Italia è scesa dal 111esimo al 114esimo posto nella classifica dei paesi con pari opportunità o che danno opportunità alle donne. Ancora con queste cazzate. Ascoltare i segnali deboli. Ancora con queste classifiche ridicole, dai, ma non diciamo minchiate. Lei, Cruciani, pensi che il World Economic Forum sia una classifica ridicola? Sì, assolutamente sì, patetica, ridicola e inesistente. Totalmente. Perfetto, cioè, quindi lei decide di non avere. Ma non mi interessa di quello che dico. No, io sto parlando con te tranquillamente, ma se tu mi citi una cosa, ti dico che a me di quello che sostiene il World Economic Forum non me ne frega una stramazza. Non posso vincolarla, obbligarla a leggere che non siano dalla pagina 21 in poi dei giornali, cioè la pagina sportiva. No, amico mio, non è questione di questo. Non fare il saputello con me, che non ci casco in questa storia qua. La questione è semplice: delle statistiche sulla parità dei sessi in Italia, eccetera, me ne strasbatto, perché penso che, ovviamente, come in tutti i paesi occidentali, ci sia stato da sempre un problema che riguarda la parità uomo-donna. Questo problema sia largamente superato oggi. E poi cosa c'entra questo? Scusa, cosa c'entra questo problema generale con la vicenda delle ragazze dell'est trattate nel programma della Perego? Cosa c'entra? No, spiegamelo così, dall'alto della tua scienza. Tu che leggi i giornali fino a pagina 20. Non ho scienza. Tu che leggi i giornali fino a pagina 20. Avanti, forza. Ho soltanto volontà di esprimere la mia opinione. Sì. Allora, la statistica non è sulla parità dei sessi in Italia, ma è sulla partecipazione alla vita attiva. E io, come padre di una bambina e come amico di molte ragazze, qualcuna anche dell'est, che vengono in Italia e si sentono snobbate in questo modo, non posso tacere e quindi dare ragione a persone come voi che mettono sgarbi in diretta. Voi avete messo sgarbi in diretta che dice: ah, ma era ovviamente una bufala, era grottesco, ironico. Certo, ma è quello che penso uomini, io. Ma quello che abbia detto: se chiedete agli uomini, tutti diranno lo capivano. Ma chiedete alle donne. Come? Ma per cortesia. Sono una categoria generale. Ci sono donne e donne. Donne che la pensano in un modo e donne che la pensano in un altro. Anche la Perego che conduce la puntata è una donna, mi pare, no? Ma anche le donne allora, che l'Ucraina che era in studio era una donna, no? Ma comunque dai, ma chi se ne... Ma ti pare da fare una polemica? Allora, portate lì delle motivazioni che non hanno senso. Ma motivazioni per che cosa? Spiegami. Va bene. Per cambiare il discorso. Luca, no, non ho capito una cosa. Allora, tu avresti chiuso, è giusto chiudere la trasmissione. Andiamo sul concreto invece di parlare del sesso degli angeli. Secondo me è giusto chiudere la trasmissione. Io do perfettamente ragione alla Boldrini. Perché ottimo. È un segnale debole che in Italia c'è e la classifica lo dimostra, e bisogna agire. Ci sono fondazioni in Europa e all'estero. Dunque, la questione importante, sì, è certamente importante, del sesso, della parità del sesso, passa attraverso la soppressione di un programma che parlava in maniera leggera delle donne dell'est, anche questa è una generalizzazione, delle caratteristiche che hanno meglio delle donne italiane. Secondo te, la questione della parità della donna, eccetera, eccetera, passa attraverso soppressione di questo programma. Questa è una cosa ridicola. Del programma. Ma non è la visione del programma. Ridicola. Questa è una sua visione della situazione. Io le dico che non è il programma il problema, ma è il segnale debole, è il commento. Il segnale debole è quello che lei c'ha nel cervello, mi sa. Il segnale debole. Guardi che io non ho problemi se lei continua a offendermi. Non ho mica era una battuta, battuta. Mi sta spostando il discorso. Io vorrei rimanere puntuale sul discorso. Puntuale sul discorso. Mi pare di segnale debole. Il segnale debole, giustamente, dice Parenza, è quello del cellulare. Ogni tanto c'è poco campo, c'è il segnale debole. Va bene, come non detto, dai, ho provato. Ma che vuol dire? Ma mi parli per cose. Segnale debole, mi pare di segnale debole, ma non so cosa vuol dire, Luca. Ma mi sembri, non lo so chi. Segnale debole, che vuol dire segnale debole? I segnali deboli sono dei segnali che evidenziano che c'è un problema che è implicito, che non è ancora espresso o non è totalmente espresso. Comunque è chiaro che tu sei dei commenti. Sì, è chiaro che sei dalla parte della Boldrini, mi pare abbastanza evidente. Cioè, uno parla di segnale debole, di cultura. Ma a me della Boldrini non interessa niente. Io sono dalla parte delle persone che ragionano col proprio cervello e di mia figlia che va a scuola. Tua figlia cosa ha fatto? E viene a casa piangendo perché gli dicono che lei non può avere come colore preferito il blu. deve avere il rosa perché è una femminuccia. Ma chi lo dice? Persone... Ma chi lo dice? Non ho capito. Ma chi lo dice questa cosa? Oppure non voglio dover spiegare. Ma che puttanata è? Ma che puttanata è? Tua figlia torna e piange perché le dicono che il suo colore preferito non può essere il rosa. Sono, guardi, ma che puttanata è? Ma lo vedi che tutto cade con questi esempi ridicoli che stai facendo? Ma vai dalla maestra. Vogliamo parlare dei giochi che ci sono e che mia figlia dice: come mai i giochi dei maschietti sono più belli dei giochi delle femminucce? Vabbè, ma allora, insomma, lo vuoi chiudere te, questo io qua? Io sono ammirato dal look del mio amico Mauro Corona, che è qui seduto. Mauro, buonasera, come stai? Buonasera, benissimo qui, finalmente vedo il covo vostro. Bene, allora, dammi il titolo prima della pubblicità. Diciamo subito, quasi niente, Mauro Corona con Luigi Maieron, che è un cognome tipicamente veneto, credo, Maieron. Friulano, benissimo. Chiare lettere, un libro straordinario, un libro meraviglioso. Non l'hai manco letto? Ancora no. Non l'hai ancora letto? Che ne sai? Ancora no. Che cazzo ne sai? È un libro straordinario e chi non lo compra è un cornuto. Sì, però io voglio dire una cosa. Una volta Mauro Corona ha regalato un libro a mia figlia. Certo. E ancora mia figlia si dice, scusa, ma ogni tanto si ricorda di questo libro, che lo tiene là dopo averlo letto, perché mia figlia legge tantissimo. Bravo, Mauro. È il contrario della generazione di quelli che non leggono più. Esattamente il contrario. Si vede che non è tua figlia, infatti. Fate la prova del DNA o no? No. Allora, quasi si ricorda, niente, ma scusa, ma perché non incontriamo più quel signore che abbiamo incontrato a Torino una volta? Perché in realtà i bambini potrebbe fare paura uno come Mauro Corona, con i capelli lunghi, tutto così. È un nonno della foresta. In realtà non fa paura ai bambini, cioè non fa paura ai bambini, o no, Mauro? No, ma anzi, me li porterei con me, li insegnerei a scalare, a camminare, a scolpire con l'argilla. Mi piacciono i bambini. Perché sono tristi, bisogna portarli più all'aperto, più farli conoscere gli alberi, un percorso. Amo molto i bambini. Ci sentiamo tra poco, fermi. Sì. Lasciati un parenzo e alla defecazio non ci penso. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Cianone, volevo darti la mia, che ho un po' di esperienza di un anno ormai sul campo di battaglia di Mosca. Ecco, cazzo che quei punti sono dei luoghi comuni, come dicevi tu ieri. È pura realtà, è pura sacrosanta realtà. Siamo nel paese dei balocchi qua. Un abbraccio. Amico mio, l'ha sempre detto Rocco, le donne dell'est sono le migliori, lui sì che è al top, Cruciani, Parenzo Segaiolo. Tra tutti quei punti manca quello più importante, le donne dell'est se la rasano. Giuseppe, ma tu lo sai che è tornato di moda il pelo? Allora ragazzi, questa è La Zanzara, non c'è dubbio. Grande mix su questa vicenda ancora delle donne dell'est, che ci ha dato, devo dire, dobbiamo ringraziare la signora Perego indirettamente, anche un po' la Boldrini e tutti quelli che sono intervenuti, perché ci hanno dato materiale per giorni. Effettivamente è un tema di grande attualità. Per esempio vorrei invitare in studio prossimamente la signora Alena. Voi l'avete vista la signora Alena? La proprietaria di un ristorante di Lugano che ci ha chiamato prima? Sì. Beh, amico mio, vai a vedere. Almeno dalle foto sembra un gran pezzo. Sembra dalle foto un gran pezzo di figa. Alcune trasmissioni hanno ospiti Federico Rampini, Zucconi, eccetera, e noi abbiamo Alena. Comunque qui c'è Mauro Corona. No, abbiamo anche Mauro Corona, però, in realtà. Molto meglio Mauro Corona di Rampini o di qualcun altro. Grazie. Volevo subito coinvolgere il signor Corona, però, su un argomento. Quasi niente, diciamolo però almeno. Aspetta un attimo. Volevo subito coinvolgerlo sulla vicenda. Delle donne dell'est. Immaginavo. Allora, caro Corona, tu sei mai stato con una donna dell'est? Ecco. No, non ho avuto occasione. Bisognerebbe anche chiedere l'ultima volta con cui sei stato con una donna, perché mi sembri, da questo punto di vista, molto depresso no, sessualmente. No, ho quello che mi serve, ve lo posso garantire. Hai quello che ti serve. Una volta sua montagna, lui ha la sua montagna, i suoi boschi. No, non basta la montagna. Basta la montagna. Scusa, una volta ha confessato qui che praticamente tradisce la moglie puntualmente. No, ma che discorsi, dopo 40 anni devo stare ancora lì. È giusto, dopo 40 anni uno come? Si diverte anche. Ma non, la... è che non è un tradimento. Il tradimento è una parola sbagliata. Uno, uno allora perché io sono sposato non ho, devo stare sempre con lei fino alla morte. Ma scusa, a te non ti darebbe fastidio se tua moglie no, assolutamente, dire, si accompagnasse con un altro? Ma non sono superate ste robe, vada con chi vuole. Ma come con chi vuole? Giusto, bravo, ma bravo Mauro, bravissimo Mauro. Cioè la monogamia ormai dopo un po' di tempo è superata. Ho capito, ma all'inizio, i primi anni d'amore, se tu dopo le tue scalate torni a casa e trovi tua moglie con un altro, un po' con gli pago la birra, me ne vado, cerco anch'io un altro, perché ma devo ammazzarla, ma no, se una è con un altro, vuol dire che li garba quello, allora se lo tenga lei io mi trovo un'altra. È inutile fare omicidi perché trovi una con un altro. Per carità di Dio, quello non siete gelosi, possessivi? No, io no, considero la gelosia e il possesso qualcosa di criminale quasi. Ma neanch'io, vada con chi vuole. Sì, e anche tu naturalmente, mi sembra che tu hai diversi amanti allora, mi sembra di poter dire. Uno scrittore intellettuale. Ma più che amanti fisse sono occasionali, diciamo, gente che conosco. Non, gente che conosce per i tuoi libri, cioè i libri ti hanno fatto scopare, diciamo la verità, ti hanno dato... Sì, assolutamente sì, anche le sculture prima. Anche ma le si sculture. Può ridurre? Come fai a ridurre l'arte, la letteratura, i grandi romanzi a tutto un bordello? No, si riduce sempre tutto a un bordello. No, l'arte veramente. Rimane arte, ma quando diventi noto, famoso, magari allora dico, guarda quello che è interessante. Io non sono interessante, ma siccome sono diventato noto. È più facile. Puoi più pigliare facile. Di più. L'accesso è più facile. Puoi prendere di più. Puoi prendere di più. Ma senti, com'è quella storia che hanno chiuso la trasmissione lì? Ma ti rendi conto, Mauro? Sa perché l'hanno chiusa? Ma se che la trasmissione avesse fatto 30 milioni di audience, non chiudevano mica. No, ma ha fatto un buon ascolto. Beh, non so, faceva bene però. Lì è proprio il puritanesimo. Bigotti. Per esempio, il presidente della Camera, come lo consideri tu, la signora Boldrini? La signora Boldrini, detta anche Boldrinova. Ma non devo stare attento a usare gli aggettivi. Ma questo puritanesimo, questo questa delicatezza trattenuta, questa non la giudico, però insomma. No, giudicala pure. Beh, sei un cittadino che giudica una che paghiamo noi, peraltro. Voglio sottolineare, la signora Boldrini non eletta da nessuno perché c'era ancora il Porcellum dichiarato incostituzionale successivamente dalla Corte Costituzionale e messa lì per un gioco di potere di Bersani, te lo ricordi benissimo. Vabbè, normale. Certo. Per un gioco di potere di Bersani, adesso ci fa la morale a tutti. Dunque, non dico illegale perché non uso la stessa cosa dei grillini, però certamente uno si deve anche rendere conto che è stata miracolata, una miracolata, diventata presidente della Camera per un miracolo politico che non si ripresenterà mai più. Dunque, volevo un giudizio sereno ma anche definitivo di Corona sulla Boldrini. Ma mi sembra finta. A me non piace, sinceramente, però questi sono problemi miei, magari. No, certo. L'ombrosianamente, io sono un seguace dell'ombro, non mi piace, non mi fido. Cioè l'ombro la vedi anche nel modo di parlare, il modo in cui pronuncia le frasi. Finta, che non deve tutta perfettina, che non deve accadere. Forse non è così. Ma io ti capisco. Si fa portavoce del buon costume, di tutte queste cose. Ha una sua sensibilità, diciamo. Ma certo, ma anch'io la mia. Assolutamente. Scusami, Mauro, adesso tua moglie però è consapevole di questo tuo stato, diciamo, di tradimento continuo? Ma penso di sì, cioè, lo sì, sa, ma glielo vogliamo comunicare anche via radio. No, non ascolta la radio. Evitiamoli, lo sa, e quindi è inutile che lo sappia due anche volte. Tuo figlio anche lo sa? Due lo sanno, altri no, altri si fidano ancora. Due sanno che il padre, non dico che è un puttaniere, perché tu non sei un puttaniere. Quello no, anche quello perché ho 67 anni, ho i colpi ridotti, però. Vabbè, colpi ridotti. Insomma, la vita, diceva Ernesto Sabato, si scrive in brutta copia e non c'è tempo di correggerla o ricopiarla in bella. Allora che devo fare? Sono gli ultimi colpi, me la godo, poi vado alla tomba e amen. Però gli ultimi colpi, non la mettere così, 67 anni, ancora con qualche pillolina qualcosa si può fare, o sbaglio? Ma, no, si può fare. Pilloline? Pilloline? Sì. Ma come no? Ma le prendono anche i giovani, anzi se c'è qualche farmacista compiacente me le dia gratis, che costano una cifra. Sì, costano. Ma tua moglie almeno legge i tuoi libri o no? Non lo so, non mi interessa. Come ti interessa? A me interessa venderli, non che li leggano. Ma cosa dici? Interessante questa cosa. No, perché non ho mai chiesto. Non sono così bigo, non sono così ambizioso. Di leggetemi, compratemi, fate a meno di leggere. Ma cos'è questo quasi niente? Questo qui è una riflessione che ho fatto con un amico. Sulla vita, sulla vita bisogna avere poco. Sulla vita, sulla paura della morte, le malattie, i figli, sul fallimento. Ma voi sapete che fallire fai un'opera bene, che fai star bene metà l'umanità. Ma speriamo di no, qua sta fallendo tutto. Ma no, ma cosa c'è da fallire? Se voi fallite, tanti. Ma non lo dica qui, ma per carità. Siate dei falliti, farete star bene un sacco di gente. Beh, oddio, adesso. Ma anche teoria. Perché? Scusa, spiegami la teoria. Vi spiego la mia filosofia. Sì, spiega, sentiamo. No, non quasi è che abbiamo niente, tutti dice, amici, vabbè. Nemmeno Gesù no. ebbe tutti amici, gli impiantarono tre chiodi. Allora io dovevo, secondo la casa editrice, dovevo vincere il campiello e mi buttarono allo sbaraglio in una finale che non vinsi. Sì. Metà l'Italia ha gioito, quindi io ho fatto un'opera di bontà. Cioè, non vincere nulla. Il fallimento provoca la gioia di altri. Provoca, dici? La gioia. La Rochefoucauld diceva: nelle disgrazie dei nostri migliori amici c'è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto. È vero. La Rochefoucauld alla Zanzara, ragazzi. Non mi noi la Rochefoucauld. Ma io lo so benissimo, la lo so benissimo. Ragazzi, cioè, so benissimo la Rochefoucauld. Allora qui si può passare da Cicciolina che racconta, sì, del da sesso Donato, no, da Varese, con i cavalli, da Donato da Romano, al signor Mauro Corona che cita la Rochefoucauld, ragazzi, esatto, la bellissimo. Rochefoucauld. Ora io voglio chiedere una cosa, qual è la cosa sessualmente più ripugnante che hai fatto, caro Mauro? Ecco, una domanda pazzesca. La cosa più guarda, credetemi. Cioè, a puttane sei andato qualche volta? No, mai pagato. Aspetta, una volta quando dai alla visita di leva, Udine, sì. Vabbè, quello però. Avevo 19 anni. Però non conta, insomma. Non conta, cioè, nel senso, è dimenticata. È dimenticato ormai. No, ripugnante no, però, sempre avuto una condotta, diciamo, naturale. Naturale, cioè non, sì, sei un amante delle cose perverse. Ma le hai amate tutte queste donne con le quali sei stato? No. Ma, amare che è una parola, guarda che dire amare è una, ma roba seria. Ma cioè lei semplice, cioè amate nel senso, non so, io no, penso di no. Forse una, ma. Ma adesso, per esempio, ti si buttano al collo queste qua quando tu vai fuori a presentare i libri o a fare le cose. Sì, molte da donne. Dietro la regia dicono di sì. La signora di chiare lettere dice di sì. Non vorrei sì. apparire sì. un sciupa femmine sì. o un no, però ci sono molte che vorrebbero venire a letto con te immediatamente, appena presenti il libro. Non fosse altro che tu cominci a parlare. Quando io anche sto scrivendo un libro, infatti. Sì, quando cominci a parlare da qualche sì. parte, la gente, secondo sì. me, una donna subito, questo qua me lo farei, io no, c'è questo sangue che scorre anche lì, no? È capitato un paio di volte proprio lì sul che però non ho accettato perché era con altre persone. Ah, ti però hanno offerto è subito, è capitato, sì, però ma poi si può sempre dire torno domani. Beh, quello che è successo poi. Io non ho mai conquistato, guardate, non sono anche bruttino. Non ho mai conquistato. Ho aspettato la mossa loro. Se le cose andavano bene, si andava d'accordo. Ma io non sono stato lì a fare il pappagallo, cioè non sei un corteggiatore, non ho invitato nessuno a cena. Mandare dei fiori, amore, andiamo a cena. No. Non sei un corteggiatore. No, sono un uomo pratico perché non ho più tempo. Dico, cosa vuoi? Venire con te? Andiamo. Andiamo subito. Basta. Sì, no, la cena. Io mangio pochissimo, tra l'altro. Devo andare a cena a perdere due ore lì. Ormai no, si va bene. Pagare. No. Ma posso no. anche pagare, ma non sto lì a preparare, a fare il preparativo. Sappiamo sì. già cosa dobbiamo fare. È sì. tempo perso. Ma è il numero uno assoluto. Ma c'è tutto quell'aspetto bello però della conquista, no? Ma che del conquista? Maschio. Ti pare a te di conquistare, quelle lì ti pilano per il culo anche. Su. Dai, hai ragione. Senti, Parenzo, però, che adesso fa tanto il sì. perfettino, chiama miserabili quelli che vanno a puttane, tu ti rendi conto, Mauro? Questa è una roba, beh, questa è mi pare che ha proposto pure di denunciare, sì, di portare la multa, ma assolutamente alla moglie, ma dalla casa alla moglie, perché Parenzo ha una bella una bella moglie, una bella donna, ma se no c'entra, e come, ma c'entra, allora c'è un sacco di gente questa qui è un'opera pia, che se uno ha difficoltà ed è timido e non trovano qua, perché non deve avere, ecco, del sesso, ecco, la prostituzione è un'opera pia, perché non deve avere del sesso, quello certo, perché ci sono le donne sfruttate. Io voglio, ma combattere lo sfruttamento delle donne. Ma non è mica donne, quello, capito? Non è mica quello che va a puttane che sfrutta le donne. Beh, anche come no. se comprasse merce contraffatta, allora, no? È uguale. Allora chi compra, tu sfrutti la natura per comprarti un'automobile perché è fatta di metalli e di minerali. No, capito? Ma sapere che una donna c'ha il magnaccia, è sfruttata, è sottoposta a violenza e tu vai lì per il tuo istinto sessuale, ma allora la uno compri con 100 euro per fare i tuoi porci comodi, guardati un film e porno e non sfruttare la tu donna. Tu vedi film porno, Mauro? No, mi aveva regalato tre o quattro un vecchietto, però mi avevano annoiato, li ho dati a un ragazzo lì. YouPorn lo guardi? No. No. Non ha no, tempo, per carità, non ne frega niente. Ma no, preferisco farlo che guardare. Cos'è ma che ti eccita di più di una donna? Il culo. Il culo. Intellettuale. Ma ragazzi, no, perfetto. E deve essere tondo, largo, non quelli stretti. Anche Moravia comunque andava molto nel merito del. Ecco, Felliniani. Un po' tipo la gradisca. Tipo pensa la gradisca. A me invece eccita il piede. Pensa te, i piedi delle donne mi eccitano da morire. Pensa te. Che devo fare? Insomma, non è che ti invidi. Lo so, però i piedi mi fanno impazzire. Il culo, sì, d'accordo. Però anche ogni tanto. Stiamo presentando il libro di Mauro Corona, Quasi niente. Però, Mauro, io voglio capire. capire da te se l'altro giorno abbiamo avuto una piccola discussione lì a Bianco e Nero. Ma lì dovevamo fare questi casini. Spari o non spari se qualcuno entra dentro casa tua? Ho detto l'altro giorno, bisogna vedere la situazione, perché io ho le armi di mio padre, anche mio fratello. Cioè, ce le hai? Quante armi hai in tutto? Fucili. Abbiamo porto d'armi solo di detenzione, non posso portarle fuori. Mio padre morì e ci lasciò delle armi, era un cacciatore di quelli giusti, e mia mamma mi lasciò dei libri quando sono morto. Ora le ho lì. Allora, se vengono, intanto aveva ragione anche Sgarbi, stai attento che se entri a casa mia ti può succedere. Io però ho il terrore di avere un morto sulla coscienza, perché non mi lascerebbe più dormire. Ma se ci sono le situazioni, questi qui li vedo a stuprare mia figlia, non lo so cosa faccio. Oppure mi buttano per terra e cominciano a pestarmi di calci. Io ho la pistola, tiri fuori e Vabbè, ultima cosa, Mauro, ultima cosa. Ma le mutande che c'è addosso, da quanto tempo non te le lavi? No, sono venuto giù domenica sera, quindi domenica, lunedì, sono due giorni che le ho. Beh, però ne ho un paio nello zaino, ma mi sono fatto la doccia. Sì, però due giorni senza mutande. Perché no, senza, con le mutande stesse. Sì, no, senza cambiarsi mutande, scusa, senza cambiarsi quasi mutande. Niente, praticamente. Qual è la cosa, la cosa più sporca che hai fatto? Cioè, ti sei tenuto le mutande piene di merda per quanto tempo? Io ma perché deve essere così, tutto no, così? Ma succedeva che si stava via a caccia anche una settimana e si teneva gli indumenti che avevamo, insomma, ma no, piene di merda, casomai no, me le lavo in un ruscello. Sì, ma la strisciata, però sì, la strisciatona. La strisciatona può rimanere. Non la anche... vedo perché uso colori scuri. Ciao, Mauro. Ciao, ragazzi. Mauro, ciao, Corona. Ciao, grande. Allora, dove andiamo? Riccardo da Milano, vai, Riccardo, vai. Pronto. Dimmi. Vai. Senti un po', volevo parlare un attimo con Parenzo. Visto sì, che vai. Oggi avete parlato di infibulazione, giustamente avete detto di quanto sia una minchiata, di quanto sia orribile fare queste cose. Infibulazione è una violenza inaudita. Sono completamente d'accordo. Proibita da allora, Riccardo, vai al sodo. Però quando ogni volta che si parla di circoncisione, tu vieni fuori con... Ma sono due cose diverse. Anche la circoncisione, è una violenza. La circoncisione la fanno negli Stati Uniti al 90% dei maschi italiani, perché è considerato dei maschi americani. Dei maschi americani. Si è rimesso le cuffie, Corona, non so perché. Sulla circoncisione. Ma per sentire, volevo sentire. No, ciao, volessi intervenire sulla circoncisione? No. Ah, okay. No, tu sei circonciso, Mauro? Ecco la domanda finale, perfetto. Cosa vuol dire circonciso? Cioè, circonciso, c'hai con una filetto, parte del prepuzio tagliata. Tagliato. È una cosa di anche sanitaria. Non credo, nessuno me l'ha tagliata. E allora è come mamma t'ha fatto. Comunque ha funzionato fino adesso. Ha funzionato, ma anche di dimensioni notevoli il tuo pisello. Ma no? Vabbè, ma chi manca adesso? Ma so. Da quel che si dice direi di sì. Ma chi dice? Cioè, sei super dotato in pratica. Non dico super, ma un po' più della media. A chiare lettere disperati. Beh, la regia. Amico mio, più della media. Siamo sopra i 15, Mauro. Sopra i 15, allora. Assolutamente sopra i 15. Sopra i 15. Sì, però ha ragione Riccardo quando dice. Senti la musichetta sotto, vuol dire che dobbiamo chiudere. Sì, sai? Però Riccardo dice una cosa, Riccardo da Milano. Tu te la prendi con la infibulazione, per carità, sicuramente sì, un'altra certo. cosa. Ma è comunque una forma di mutilazione. No, non è una mutilazione. Riccardo dice, anche la circoncisione. Non è così. Guardate i libri, qualunque libro medico, serio. Sempre, tu parli sempre di questo studio dell'OMS, ma è stato Organizzazione superato, Mondiale della Sanità, sbuffalate, roba degli anni 70 che è stata fatta dagli americani. Se tu fai la circoncisione a un bambino è comunque una mutilazione, che sia assolutamente una mutilazione, no, non è considerata tale. Lei è violento, vada a farsi circoncidere, sarà più contenta che sua moglie. È vero, ciao ragazzi, ci sentiamo domani. Viva la zanzara, viva la libertà, ciao. Questa Salute. È tornata dal fidanzato, è tornata da grande zoccola. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Da grande zoccola. Chicco! Radio 24. Chicco! Libera la voglia di fare. Naturalmente.